Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Carissimi ascoltatori, finalmente ci siamo giunti al momento decisivo della stagione, quello delle NBA Finals. In un'edizione dei playoffs dove tutto sembrava in bilico rispetto alle stagioni passate, dove ci eravamo trovati di fronte a due gare 7 per entrambe le finali di conference, come tra l'altro sta accadendo da 3 anni, ci ritroviamo alla fine a presentare l'ennesimo rematch della sfida tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Quella che sembrava la previsione più scontata d'inizio anno si è inevitabilmente verificata, nonostante le possibilità di un inserimento di pesante novità che, come già detto, in molti avevano cullato. E nonostante, per quanto riguarda i Cavaliers, una stagione funestata da rivoluzioni di squadra, diatribe infinite di mercato, scelte dolorosissime e deludentissime che regalano alla franchigia dell'Ohio una squadra nettamente indebolita sulla carta rispetto a quella di 365 giorni fa. Inutile stare a fare riassunti di partenze ed arrivi di mercato, è sufficiente invece analizzare che già lo scorso anno Golden State era apparsa nettamente superiore, dominando una finale chiusa per 4-1. Difficile prevedere un risultato diverso anche nei pronostici più ottimistici per quest'anno, ma diciamoci la verità, qualche sorpresa momentanea questa stagione ce l'ha regalata, quindi prepariamoci anche alla remota ipotesi di trovarci di fronte ad uno scontro capace di non esaurirsi rapidamente. Come al solito, indispensabile sarebbe per i Cavaliers riuscire a vincere una delle prime due sfide ad Oakland, cosa mai riuscita neanche 2 anni fa quando clamorosamente conquistarono in territorio nemico la decisiva gara 7 vincendo l'anello. Inutile sottolineare l'opposizione tra due sistemi di gioco totalmente diversi, quello LeBron-centrico dei ragazzi guidati da Tyronn Lue in panchina e quello basato su tagli, circolazione di palla e ripartenze di Steve Kerr, con la consueta attenzione al proverbiale terzo quarto degli Warriors, quello con cui riescono a creare gli strappi decisivi solitamente nelle partite. Con la cessione estiva di Kyrie Irving ed il ridimensionamento di Kevin Love, auguriamoci comunque che possa riprendersi giocando una finale strepitosa, sarebbe comunque indispensabile per mantenere Cleveland viva, un sempre più isolato LeBron James lancia la sfida personale agli Splash Brothers, coadiuvati dall'MVP della scorsa edizione delle finali Kevin Durant e dal solito granitico Draymond Green, potenzialmente giocatore chiave nel gioco sporco anche nella metà campo difensiva. Apparentemente inutile stare a riassumere quello che è accaduto in coda alle finali di conference, perché presumo ci siano state sufficienti occasioni per vedere ed analizzare il tutto per tutti. Brevemente comunque, ad est Cleveland ha vinto 2 gare consecutive violando il TD Garden in gara 7, dopo la batosta subita in gara 5. 2 partite praticamente senza Kevin Love, le ultime 2, trascinate in modo eroico da un LeBron James capace di disputare in gara 6 una delle sue prestazioni migliori probabilmente di sempre, capace di controllare sotto tutti i punti di vista e ritmo gli eventi di una clamorosa gara 7, dove con fatica è riuscito ad inserire anche un supporting apparso ancora una volta sonnacchioso in avvio, grazie soprattutto ad un redivivo Jeff Green. È lui che statisticamente è salito in cattedra negli ultimi 2 episodi della serie contro Boston, accanto ovviamente a LeBron. Stesso discorso per gli Warriors con le spalle al muro dopo la clamorosa vittoria di Houston in gara 5, macchiata però con l'infortunio a Chris Paul. Un infortunio che non ha permesso al playmaker dei Rockets, che era la vera pedina aggiunta per puntare alla finale di questa stagione, di partecipare alle ultime 2 gare. Chissà come sarebbero andate le cose con lui in campo, chissà se i Rockets avrebbero trovato spinta e morale per evitare di soccombere contro una macchina schiacciasassi apparentemente perfetta che ritorna in finale dopo il solito terzo periodo clamoroso in gara 7 fuori casa in quel del Texas. Parliamo però piuttosto delle sconfitte per iniziare, perché sia i Boston Celtics che gli Houston Rockets sono arrivati ad un passo dall'impresa, ad una vittoria dall'obiettivo d'inizio stagione, seppur funestati da infortuni che hanno limitato il loro cammino e che quantomeno non hanno permesso ad entrambe di poter utilizzare i giocatori acquistati in estate e calcolati come decisivi per il salto di qualità nel momento chiave della stagione. Come già accennato, entrambe le squadre, che sulla carta partivano forse sfavorite, hanno vinto le rispettive gara 5 portandosi in vantaggio sul 3-2 nelle finali di conference, ed entrambe sono uscite perdendo in casa gara 7, entrambe avevano i rispettivi vantaggi del campo. Le similitudini non finiscono qui, perché ci sono pesanti analogie anche nel modo in cui sono maturate le 2 sconfitte decisive. Boston ha fallito una serie impressionante di colpi del KO nel secondo quarto di gara 7 contro James e compagni, tirando complessivamente malissimo da dietro l'arco e chiudendo con 7 su 39. Houston invece ha dilapidato alla stessa maniera un vantaggio oltre la decina nel terzo periodo, prendendo la consueta imbarcata degli Warriors, sbagliando 27 triple consecutive e terminando con un clamoroso, in negativo ovviamente, 7 su 44 da 3. Inoltre, se non calcoliamo Gordon Hayward oramai fuori dai giochi praticamente da subito, entrambe le squadre si presentavano alla sfida decisiva privi dei due acquisti estivi più importanti, come già detto, entrambi nel ruolo di point guard, cioè Kyrie Irving e Chris Paul. La prima cosa da dire, accomunando i due destini e considerando le analogie riportate, è che sia Boston che Houston hanno sofferto la pressione di una sfida decisiva e che l'inesperienza ha presentato nettamente il conto da pagare. Partire bene per farsi recuperare con grosse difficoltà nel trovare il tiro pesante è assolutamente sinonimo di perdita di coscienza, secondo il sottoscritto, e l'attenuante delle assenze importanti è sicuramente da sottolineare. A dire la verità, però, la questione inesperienza è molto più di attualità guardando ai Celtics, considerando la gioventù del roster, malgrado il migliore in campo e della serie sia apparso il rookie Jason Tatum. Ed invece, se si guarda le prestazioni in finale di conference di Jalen Brown e Terry Rozier, in particolare nella sfida decisiva, capiamo come forse, e sottolineo il forse, questa esperienza da maturarsi dovesse necessariamente passare per insegnar loro come gestire in futuro momenti del genere. In questo Houston appariva squadra meno acerba a livello di carta d'identità, ma se togliamo il titolato Trevor Ariza e James Harden, quasi nessuno, Paul incluso, aveva già praticato esperienze tanto vicine all'approdo in finale NBA. E lo stesso Harden lo fece comunque in una versione degli Oklahoma City Thunders dove era terzo violino, molto prima dell'ascesa avvenuta dopo l'addio proprio da Oklahoma City. Insomma, per entrambe le squadre l'essere arrivate così vicino all'obiettivo stagionale servirà come esperienza accumulata. Ovviamente servirà per lavorare a favore dell'inevitabile obiettivo dell'anno prossimo, che sarà un ulteriore salto di qualità e che significa ovviamente il raggiungimento potenziale delle finali NBA. Importante è capire come potranno però ripartire. Boston ad esempio potrà reintegrare Gordon Hayward e Kyrie Irving, che per la verità era già ampiamente integrato prima del suo infortunio in conclusione alla stagione. Integrarli all'interno di un gruppo cresciuto tantissimo, funzionale ad un sistema di gioco strutturato come quello di Brad Stevens, dove a comprimari di valore come Smart e Marcus Morris, Smart tra l'altro sarà comunque free agent se non erro, sono cresciuti Rozier, Brown, Tatum, grazie anche alla chioccia Al Horford. La verità è però è che a roster completo appare inevitabile pensare quanto gli spazi e i tiri a disposizione saranno minori per i sopracitati, e considerando la quantità di ottime prime scelte disponibili a partire già dal draft 2019, se non erro quella di Sacramento Kings, è opportuno immaginarsi un'attività di Danny Ainge sul mercato per riequilibrare le gerarchie del roster ed aggiungere una pedina decisiva. Irving, Hayward e Tatum sono gli intoccabili ovviamente, mentre Brown e Rozier possono apparire doppioni da seconda linea di lusso, magari destinati ad un sacrificio di minutaggio nell'ipotesi che la stagione futura si svolga secondo i piani. Non è quindi fuori di testa immaginarsi la possibilità di vederli inseriti in una trade per una terza stella importante, magari da piazzar sotto canestro, magari utilizzando una prima scelta futura in accompagnamento. Staremo a vedere ovviamente, ma sempre guardando al mercato venturo, dando praticamente per scontato l'addio di LeBron James da Cleveland, comunque vada questa finale, Boston sa benissimo che deve guardarsi dalla crescita dei Philadelphia 76ers per il dominio ad est del prossimo anno, ed i Sixers avranno presumibilmente un Markelli Fultz in più da inserire accanto ad Embiid e Simmons, puntando ad acquistare uno tra James e Paul George, almeno così si vocifera. Succedesse, Danny Ainge sa già che dovrebbe rispondere con un colpo grosso per restargli in scia. Come può fare invece Houston per ritornare migliorando la stagione appena conclusa? A mio avviso ci sono due possibilità. Una è quella di continuare puntando su un sistema basato sul tiro perimetrale ed alternando le opzioni palla in mano di Harden, che predilige la soluzione personale, con quelle di Chris Paul, ma lavorando contemporaneamente per garantire una rotazione più ampia nei playoffs. Infatti in stagione regolare ho più volte applaudito il fatto che D'Antoni si era contornato di un numero maggiore di pedine utilizzabili nelle fasi calde del campionato rispetto alla stagione scorsa. Tuttavia, guardando a come sono andate le cose, le rotazioni in post-season dei Rockets si sono notevolmente ristrette ed alcuni minutaggi decisamente diminuiti. L'altra opzione è quella di rivoluzionare le gerarchie di squadra, puntando tanto nella free agency, e non è infatti un mistero che tra le mille teorie che raccontano le eventuali opzioni estive di LeBron James ci sia anche quella dell'approdo a Houston, un porto dove sarebbe possibile vincere subito, almeno sulla carta. Anche se tra il dire e il fare ovviamente c'è di mezzo il mare, come si suol dire. Soprattutto sarebbe curioso capire come far convivere i due principali contender al premio di MVP dell'annata che va concludendosi, per il quale, malgrado non continuo niente nelle valutazioni, le prestazioni complessive dei playoffs avrebbero già indicato chi è nettamente migliore, quasi senza storia. E questo è solamente un altro modo per dire e sottolineare come anche quest'anno, secondo me, James Harden abbia lasciato la stagione con l'amaro in bocca, considerando che le sue migliori prestazioni in campo raramente sono state decisive rispetto al risultato positivo della squadra in questi playoffs, e che spesso è apparso in difficoltà nella gestione dei momenti più importanti. Insomma, noi lo calcoliamo come un consacrato go-to guy destinato a guidare una squadra al successo, ma non sarà forse il caso di provare ad immaginarselo come un secondo violino potenziale? Certo, comunque, che poi ci sarebbe da contrattare, eventualmente, con il suo gigantesco ego, e non sarebbe sicuramente cosa facile. Ma arriviamo finalmente al pronostico per le finali, che per voi che ci state ascoltando in qualsiasi piattaforma disponibile saranno già iniziate. Pronostico a senso unico per gran parte degli osservatori, ovviamente, che si chiedono soltanto se i Cleveland Cavaliers riusciranno o meno a strappare almeno una vittoria alla corazzata Warriors. In realtà, noi stiamo registrando alla vigilia di mercoledì pomeriggio, per Golden State ci sono un paio di dubbi che potrebbero rivelarsi non da poco. Il primo riguarda Draymond Green ed una presunta lieve distorsione subita nelle fasi terminali della serie contro Houston. Attualmente non appare in dubbio e sicuramente non mancherà l'appuntamento più importante della stagione fin dall'inizio, ma è probabile che possa limitarne un minimo le prestazioni difensive. E Green è fondamentale per fisicità al rimbalzo e nei cambi continui che Golden State effettua in difesa, che saranno importantissimi per sperare di limitare un James in stato di grazia inevitabilmente osservato speciale della serie. Proprio rispetto a ciò e al sistema da attuare per mettere in difficoltà il re, il vero problema potrebbe essere Andre Iguodala, fuori nelle sfide finali contro i Rockets per una botta presa al ginocchio, il cui dolore procurato non sembra essere diminuito. Ricontrollato e rivalutato immediatamente dopo la conquista del titolo della Western Conference per i suoi, risulta attualmente in serissimo dubbio per l'avvio della serie. Sicuramente, a differenza di Green, riuscisse a giocare a prescindere dal dolore, le limitazioni fisiche sarebbero inevitabili, così come potrebbe preoccupare eventuali sollecitazioni che potrebbero peggiorarne le condizioni. Iguodala, nonostante tutto, è giocatore importantissimo per questa squadra, ed i precedenti episodi dell'epopea tra Warriors e Cavs in finale sono lì a dimostrarlo, anche perché il dato di fatto per il quale il re ha trascinato quasi da solo i suoi alla vittoria di tre serie difficilissime in questi playoffs dimostra quanto possa essere insufficiente concentrarsi nella limitazione del suo contorno, lasciandolo sfogare. Un contorno che avrà bisogno di un Kevin Love da almeno 20 punti di media per poter sperare di dire la sua tangibilmente, e tra l'altro Kevin Love risulta al momento in cui stiamo registrando in forte dubbio per gara 1. Avrà poi bisogno anche di un Jeff Green capace di replicarsi per come lo abbiamo visto nella serie con Boston. Avrà bisogno della concretezza da dietro l'arco anche di J.R. Smith e Kyle Korver. Poi i cosiddetti nuovi arrivi dovranno rispondere presente in un momento del genere all'unisono. E per quanto riguarda George Hill, che è il più impegnato tra loro, sarebbe preferibile non limitare le proprie prestazioni positive alle gare interne della Quick and Loans Arena. Il problema di Cleveland comunque sarà, come tra l'altro per tutta la stagione a prescindere dai valzer di mercato, prettamente difensivo, anche perché in quella metà campo LeBron si prende gran parte dei momenti di pausa dei suoi 48 minuti di media in campo, e notoriamente i Cavs sono pigri nei cambi e lenti nelle uscite dai blocchi. Si tratta di due aspetti che divengono vitali se si vuol sperare di non prendere imbarcate contro i Warriors, che sui tagli e le uscite dai blocchi basano il proprio sistema di gioco, farcito di tiratori tra i migliori di sempre. Impossibile sperare in una serata pessima contemporaneamente per i tre fenomeni Curry, Thompson e Durant, quindi i Cavaliers devono sperare in un miracolo nelle prime due sfide che gli regali l'insperata conquista di un ritorno in Ohio sull'1-1 e da lì giocarsi le proprie chance. Ripeto, secondo il mio punto di vista, ipotesi più unica che rara, anche perché i ragazzi di Steve Kerr restano in tutto e per tutto la squadra più forte del mondo, ed il modo in cui si sono ripresi in gara 7 contro Houston, conquistando la serie in trasferta nel terzo e nel quarto periodo, è lì a dimostrarlo. Staremo ovviamente a vedere quello che succederà. Io non riesco, nel voler essere il più positivo possibile, a pronosticare più di 6 partite, anche se davvero il risultato più prevedibile è Warriors per 4-1. Inutile dire che se James riuscisse clamorosamente a far vincere i suoi contro Golden State 4 gare su 7, la sua post-season passerebbe nella leggenda come la più incredibile e gigantesca di sempre. Già ad oggi, considerando la cavalcata appena conclusa ad Est, sicuramente è menzionabile tra le prime tre. Per aggiornamenti, comunque, su tutto quello che succederà, l'appuntamento resta sulla nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci, invece, come al solito, ci trovate il giovedì sera in streaming su Radio Big World ed in podcast dal giorno seguente, sul canale YouTube di Belli 13 il sabato mattina, su Radio Valdarno la domenica pomeriggio ed in podcast nel loro sito. Grazie per l'ascolto, buone finali NBA a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni.